Alcune volte i brani biblici hanno una loro complessità e una loro narrazione, per esempio una parabola, un miracolo, per cui hanno un loro insegnamento. Ed è bello, ma è bello anche andare a cercare delle singole frasi belle dentro nella parola di Dio. È il caso di questa mattina in cui io vi sottolineo qualche frase, magari slegata l'una dall'altra, ma che potrebbe costituire un pascolo. Sì, è meglio un giorno nella tua anticamera, nei tuoi atri, che mille nella mia casa. Amici, se uno si ferma a riflettere e dice cosa c'è di meglio della tua casa, ci accorgiamo d'estate quando andiamo in ferie, è bello andare via, ma com'è bello tornare a casa, casa nostra. Ed è vero. Ma qui il salmista di questo Salmo 83 ci dice: è meglio un giorno non nella tua casa, nella tua anticamera, Signore. Perché? È perché il Signore ci riempie di consolazione. E poi ribadisce il concetto: stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende dei malvagi. Oh Signore, ti chiediamo, facci comprendere questo, fallo comprendere a tanta gente che insegue solo il benessere, insegue solo quello che i film, le fiction, appunto le finzioni, gli propongono, e non prova invece la dolcezza dello stare in compagnia tua, o Signore. Perché il Signore concede grazia e gloria. E conclude questo brano del Salmo: beato l'uomo che confida in te, Signore. Vedete, queste parole meriterebbero di essere riprese, di essere mangiate da parte nostra. Io ve le presento, io ve le predico, amici, ma se non riuscite voi a riprenderle, a gustarle, a farle vostre, vi manca tutta quella parte di preghiera che è la meditazione, la riflessione, che è il gustare. E ancora un'altra frasetta altrettanto bella: fare la tua volontà, mio Dio, questo io desidero. Cosa volete che vi commenti? Vi dico solamente, vi auguro di gustare questa parola. Signore, io desidero fare la tua volontà. Oppure vi lascio infine questa parola del Vangelo di Luca, capitolo 17, che sembra una parola dura e che ho sentito diverse persone quasi contestare, no? Perché il Signore dice: tu sei servo di Dio, sei fuori a lavorare in campagna, quando torni a casa cosa ti fa il tuo padrone? Ti stende la passatoia e ti dice: su vai a fare una bella doccia che sei tutto sudato, poi ti metti in poltrona, intanto io ti cucino? Oppure il tuo Signore ti dice: ah, hai lavorato in campagna, bene, spero che tu abbia lavorato bene, dai, adesso finisci l'opera, guarda, accendi il fuoco, non c'è il gas, accendi il fuoco con un po' di sterpi, metti su il paiolo, metti su, prepara da mangiare, e poi quando ho mangiato io vediamo se c'è qualcosa anche per te. Ma che padrone è questo? Ma che padrone è? E poi ti dice, perché quando tu hai fatto tutta la tua parte devi dire, ma è logico, io chi sono? Nessuno. Sono un servo inutile, ho fatto solo il mio dovere. Sembra una parola difficile, sembra una parola dura, ma com'è bella. Perché, mi ricollego alla prima parte, comunque tu hai una casa. Forse noi che non siamo emigrati non abbiamo, senz'altro, mai provato a dormire sui cartoni sotto i portici, non abbiamo mai provato a vagare in giro e dire piove, dove vado a dormire, come faccio a mangiare, come faccio. Ma quanta gente c'è, amici, che prova questo. E noi, io non riesco a capire perché non ho mai provato, e certe cose se non le provi non le capisci. Uno può così dire ti capisco un bel niente, se non ho provato. Allora, Signore, ti ringrazio perché io che sono un semplice servo, che oggi ci sono e domani sono cenere, almeno abito nella tua casa. Allora non verrò davanti a te, Signore, a vantarmi, come se un figlio dovesse vantarsi di fronte alla mamma. Ve lo spiego con una storiella. Un giorno il figlio va dalla mamma, le presenta un biglietto, la mamma lo apre e trova scritto: per aver portato la spazzatura giù due volte, 2 euro. Per aver aiutato il papà a tagliare l'erba in giardino, 4 euro. Per aver curato il fratellino 2 sere che l'avete fatto curare a me, 4 euro. Totale 10 euro. Consegna il foglio alla mamma. La mamma dice, beh, adesso controllo, poi vedo. Il giorno dopo dice, allora mamma, guarda, c'ho anch'io i miei conti. Le presenta un foglio. Per averti nutrito 9 mesi nella mia pancia, 0 euro. Per averti dato il mio latte, 0 euro. Per farti da mangiare tutti i giorni, lavarti, pulirti, 0 euro. Totale, 0 euro. Perdonami mamma, ho capito. Questo è servi inutili, amici.